Capitolo 5. Il divulgatore e il guardiano. Eravamo giunti all'entrata dell'accademia. Il solito schiavo dal volto pieno di effelidi ci fece entrare, tenendo a bada il gigantesco cane molosso che digrignava i denti verso di noi. Percorremmo il viottolo che portava all'ingresso dell'edificio ricoperto di edera. Il giorno prima non mi ero accorta delle bellissime metope, in parte rivestite di verde, poste a sinistra e a destra della scritta sul portone centrale. Eudosso mi spiegò che erano copie di quelle che abbellivano il Partenone, la Gigantomachia, la Presa di Troia, l'Amazzonomachia, la Centauromachia, soggetti scelti da Platone per mostrare il trionfo dello spirito sulla materia, dell'ordine sul disordine, dell'organizzazione sulla confusione. Quando entrammo c'erano tutti tranne Platone e Aristotele. L'astenia corse ad abbracciarmi. Per tutti i figli di Urano, mi apostrofò in modo malo psiosippo. Che ti è successo ieri, Assiotea? Abbandonare una lezione in quel modo non è stato un bel gesto. Ci invitò a prendere posto. Platone sarebbe giunto a momenti, la lezione avrebbe toccato il tema della musica. La delusione doveva essere così visibile sul mio volto che l'astenia mi afferrò un braccio stringendolo con vigore, lanciandomi occhiate guardinghe mentre prendevamo posto nella seconda fila. Davanti a noi erano già seduti Senocrate, Eraclide e i due giovani Filippo e Teofrasto. Pseusippo si accomodò proprio davanti a noi, mentre accanto a me, alla mia destra, prese posto Eudosso. In alto si sentiva lo stormire delle foglie dell'ippocastano che svettavano nel cielo arioso mentre il sole si intrufolava agitato fra i rami. Sostenendosi al braccio di Aristotele, il maestro avanzò verso lo scanno del giorno prima, con movenze lentissime e studiate. Sedette, seguito dal suo allievo dai capelli rossi e dalle dita inanellate. Invoco il sommo Zeus che tutto compie, affinché oggi la lezione non venga interrotta come ieri da atteggiamenti che di certo non si addicono ai filosofi. La voce fioca era quasi sovrastata dal continuo stormire delle fronde. Abbiamo avuto modo di affrontare molte delle materie che ho riassunto nelle leggi. Ci torneremo, è un testo importantissimo. Senza questo corpo guida ci sarebbe il caos. Possiamo migliorarlo, ma prima vorrei discutere con voi alcuni argomenti. Quelli che mi stanno più a cuore sono la poesia e la musica. La poesia l'abbiamo affrontata nelle ultime settimane e vi siete resi conto di quale pericolo possono rappresentare i poeti senza un adeguato controllo. Se gli si lasciasse scrivere ciò che essi dicono, giunga loro direttamente dalle muse, creeremo uno stato governato dalla licenza e dall'illegalità. Qualcosa di simile vale anche per la musica e forse l'astenia potrebbe offrirci un contributo personale, grazie alla sua professione di aulettride e di danzatrice. Gli occhi chiari di Platone lanciarono un'occhiata obliqua verso di noi. I canti dei misteri eleusini, i nomoi, ogni anno si ripetono allo stesso modo da sempre, perché nomos significa legge, legge universale, immutabile, come l'armonia celeste. E noi riusciremo a liberare il nostro spirito da questa carcassa, da questa zavorra terrena, solo grazie ai misteri e alle cerimonie religiose, solo se ci accompagnerà la musica nomica. Ma il mondo della musica sta subendo attacchi che stanno sovvertendo la tradizione. Oggi ci sono auleti che si cimentano in assoli virtuosistici, mentre prima non era permesso usare arbitrariamente una melodia al posto di un'altra. Purtroppo sono sorti dei poeti che non capiscono nulla di leggi e di regole, presi come sono da dionisiaca frenesia e guidati più del giusto dal puro piacere, stanno rovinando la musica, stanno mettendo in pericolo la nostra tradizione misterica, la nostra stessa possibilità di salvezza. Si interruppe come a riprendere fiato. Dalla polifonia, riprese, siamo giunti all'eterofonia. Ma io dico che il maestro di lira e il suo allievo devono usare lo strumento in modo che il canto sia riprodotto nota per nota. Io dico, invocando il sommo Zeus che tutto compie, che non è opportuno esercitare i fanciulli all'eterofonia e alle variazioni sulla lira. tanta era l'enfasi che aveva messo nelle ultime parole, che per un momento sembrò aver raddrizzato le spalle cadenti. Non si introducono cambiamenti nei modi della musica senza prima introdurli nelle più importanti leggi dello Stato. È lo Stato che ha il dovere di stabilire le melodie e le danze che devono essere insegnate. Ci degnò di uno sguardo incupito dai suoi oscuri pensieri. Nello Stato ideale da me prospettato, la prima legge sarà l'espulsione di tutti gli artisti, drammaturghi, poeti, pittori, musicisti, vati e cantori di miti. A quel punto prese a parlare Aristotele, protendendo le mani verso di noi. Ripercorse la storia della musica dell'Ellade e concluse il suo discorso con il medesimo tono aspro, senza mai degnarci di uno sguardo. Platone invitò poi l'Astenia ad esporre il suo pensiero, ma la mia amica cercò solo di difendere un suo personalissimo punto di vista, sostenendo che la ricchezza dei suoni che l'aulos riusciva a raggiungere all'acuto e i brani eterofoni che si concludevano all'unisono in quinta o in ottava sede davano vita a un linguaggio nuovo che non voleva assolutamente dire rottura totale con la tradizione. Il vecchio fece una smorfia con la bocca e invitò Senocrate ad approfondire. Questi fissò i suoi occhi spauriti su tutti noi, come a volersi assicurare che lo avremmo ascoltato. Poi, con la sua voce nasale, prese a difendere la tradizione. Era un rigorista peggiore di Platone e Aristotele messi assieme. Tante innovazioni nella musica erano la causa della decadenza della società dell'Ellade. Senocrate cercò alleati, li trovò nei giovani Teofrasto e Filippo e un po' anche in Eraclite, mentre Pseusippo ed Eudosso cercarono di unire le loro affinità per non assecondare a tutti i costi Platone e Aristotele, venendo però messi a tacere. La musica, come la poesia, non poteva essere libera, altrimenti avrebbe potuto causare il disfacimento della società. Nessuno chiese il mio parere e ne fui lieta. Quello della musica era un mondo che non capivo, ma non erano la musica e la poesia o la salvezza dello spirito che interessavano a Platone e Aristotele. Proprio di questo parlai a Eudosso mentre mi portava a visitare l'aula di astronomia, quasi accanto all'aula principale dove ci trovavamo. Avevamo bevuto un bicchiere di latte, lasciando tutti gli altri studiosi immersi nel chiacchiericcio della sosta di metà giornata. Le pareti erano tappezzate da grandi foglie di papiro con disegni colorati di porzioni di cielo, costellazioni, stelle, la Via Lattea. Eudosso spiegava con una tale gioia da emozionarmi. Mi raccontava di come fosse giunto alla composizione di quelle mappe celesti. Mi descrisse la sua teoria generale delle proporzioni. Cercò di farmi capire come aveva affrontato il calcolo delle grandezze geometriche, il metodo di esaustione. Assiotea. Ho osservato il moto dei pianeti attorno alla Terra e ho capito che la loro velocità angolare varia continuamente. Questo vuol dire che i moti dei pianeti non possono essere circolari. Eraclide, invece, si è intestardito a studiare Mercurio e Venere ed è sicuro che ruotano attorno al Sole. Perché non dovrebbe essere così? E protendeva le mani verso le mappe celesti attaccate alle pareti, su cui pioveva la luce proveniente da due grosse finestre alle nostre spalle, mentre nei suoi occhi si era acceso un fuoco luminoso. Eudosso, perché Pitagora e Platone vogliono che il moto dei pianeti sia circolare? Prese a scuotere il capo con il più indulgente dei sorrisi dipinto sulla faccia. Alla perfezione, Assiotea. La solita storia di questi grandi uomini che odiano i difetti, le imperfezioni, le impurità e che sono convinti che la vita sia solo luce, mentre le tenebre appartengono al mondo degli inferi. Il moto circolare per loro rappresenta la perfezione, la sfera è perfezione, perciò il movimento dei pianeti deve essere circolare. Urlava quasi disperato. Ed io, povero astronomo in cerca di verità, parto già con un errore quando possiedo la mia verità e devo cercare di adattarla al cielo. È ciò che Platone ha chiesto a te, ad Eraclide? Sì, Assiotea, l'istanza platonica. La sua richiesta ostinata della perfezione divina del cielo. Io ed Eraclide dobbiamo sistemargli il cielo a base di sfere. Così ho cercato di immaginare 27 sfere, concentri rotanti attorno alla Terra, in grado di scomporre ogni moto circolare in una pluralità di moti circolari uniformi. Mi indicò una mappa alle nostre spalle. Figlia mia, comincio a sentire una puzza sempre più sottile che emana dalla città ideale platonica ed adesso i cieli perfetti, che non sono i miei cieli. Mi prese per mano, portandomi con sé nella parte finale dell'aula, protetta da una linea di separazione di legno sottile alta quanto due uomini. Rimasi a bocca aperta. Sul marmo bianco del pavimento era stata costruita una mappa geografica che vedeva come centro l'Ellade e tutte le sue isole, ma che a ponente giungeva sino alla Trinacria, a sud, sino alla Libia e all'Egitto, a levante fino al Mar Nero e al Ponto, e al nord sino all'Illiria, alla Macedonia e alla Tracia. La mappa era costruita con pietruzze colorate, solo i mari erano rappresentati dal color bianco del marmo del pavimento. Tutte le terre emerse avevano lo stesso colore, un grigio pallido che comunque risaltava sul bianco del mare. Le indicazioni delle città, delle isole e dei porti erano scritte su pezzettini di legno infilati sul terriccio. E lì, in alto, nel nord della mappa, ficcate nelle pietruzze, in piedi, sei statuette col viso rivolto verso di noi che ci trovavano nella parte inferiore. Le scritte accanto alle sei statuette erano ben visibili, su lamine dorate. Termon, Disaron, Eion, Pangeo, Abdera Taso e Madenocorio. Altre statuine erano disseminate per la mappa, ma si trattava piuttosto di frammenti, fra cui mi parve di riconoscere quelli trovati da Demos e inseriti nella località dell'Aurio. Tutta la mappa era punteggiata da stendardi rossi con l'indicazione dei nomi delle rispettive località. Eudosso afferrò una corda dallo scaffale posto in un angolo del recinto di legno. Me ne porse un capo, prese lui l'altro. Mi chiese di fermarmi sul lato di ponente, accanto alla Trinacria, sopra Siracusa. Mentre lui svolgeva la corda, girando attorno alla mappa, giungendo infine là dove era raffigurato il Mar Nero. La cordicella sfiorava la testa delle sei statuine. Non può essere una casualità, Siotea. Sei statuine, sei miniere d'oro. La corda vibrava sotto il fremito della sua emozione. Allora, Eudosso, tu pensi che lungo questa linea retta potrebbero esserci altre miniere d'oro? Che al di là della Tracia, oppure oltre l'Epiro, nelle nostre colonie della penisola italica, a Crotone, oppure ad Agrigento, nella Trinacria, oppure in Africa, fino a Cartagine? Fino a Cartagine, amica mia. Perché no? Troviamo le statuine e quindi le miniere d'oro. E con loro costruiamo migliaia di navi. Cerchiamo l'isola di Atlantide e ci rifugiamo là, prima con tutti gli schiavi delle miniere e poi con coloro che vogliono abbandonare questo mondo feroce e spietato. Vi costruiremo una società in cui ognuno sarà libero di pensare e di suonare tutte le musiche che vuole. Un mondo in cui non si marcherà mai più a fuoco una fanciulla come te. Adesso il suo sguardo era fermo. E ferme erano anche le mani con cui teneva la cordicella che non vibrava più. L'hanno vista Aristotele e Platone? Sono affascinati solo dalle mappe celesti. A quel punto si mise a frugare nello scaffale d'angolo, ne strasse un foglio di papiro e me lo porse. Ne ho altre, Assiotea. Questa tienila tu, è per Demos. Ci servirà per il viaggio che faremo ad Abdera. In pratica, la riproduzione della mappa. Poi gettò un'occhiata ad un altro foglio di papiro. Qui ho riportato la storia delle miniere, quelle d'oro, d'argento, di ferro. È un caos indescrivibile. Ce ne sono dappertutto, ma quasi tutte abbandonate, in Africa, in Oriente. Guarda, ce n'era una anche in Caria, ad Apamea, una miniera d'oro abbandonata da almeno un millennio, e una d'argento persino a Eraclea, nella città del nostro compagno Eraclide. Infilai nella borsa che avevo tra colla la mappa che mi aveva dato, poi mi feci coraggio e gli ricordai la sua proposta di portarmi a visitare la cantina. Eravamo giunti ai magazzini dopo aver percorso un centinaio di passi nel giardino. Le stanze degli schiavi davano sulla facciata interna, mentre Eudosso mi portò nella parte posteriore dove c'erano le stalle con maiali, polli e conigli. Ci addentrammo in un corridoio umido, rischiarato da lembi di cielo che penetravano da una finestrella che si apriva al fondo del locale. Si respirava un'aria di chiuso. Erano le cantine piene di orci, d'olio e di vino, di grano, di fichi secchi e di formaggio. Eudossos chiuse la porta. Entrammo. Nella penombra si intravedevano delle casapanche e degli scaffali. Lo scienziato uscì per andare a prendere una lucerna, lasciandomi sola. Ne approfittai per aprire una cassapanca. Era piena di fogli di papiro, nessun codice o libro intero, solo puzza di muffa. Negli scaffali alle pareti, fogli di papiro sciolti, calamai, contenitori di inchiostro, calami, alcuni compassi di ferro. Eudosso tardava a tornare. Aprì un'altra cassapanca. Una puzza orribile mi investì. Caddi in ginocchio. Il sangue di Antinoe. Mamma, fossi uccisa per questa puzza che impregnava quel libro. Mai avevo sentito un lezzo simile. Non poteva essere una coincidenza. Una mano di Eudosso si posò sulla mia spalla. Hai trovato qualcosa, Siotea? La lucerna proiettava le nostre ombre sugli scaffali davanti a noi. Mi sentivo male, assalita dal ricordo del sangue. Respiravo con affanno, chiesi al mio amico di farmi luce. La cassapanca conteneva un mucchio disordinato di fogli di papiro, quasi tutti già scritti. Li misi davanti ai miei occhi mentre Eudosso avvicinava la lampada. Erano brani dell'Iliade e dell'Odissea. Ne avvicinai uno al naso del mio amico. Che tanfo è questo? È un inchiostro particolare o qualche sostanza in decomposizione di cui sono impregnati questi fogli? Sentivo un dolore lancinante al cuore. Li vedi, quei minuscoli ragnetti rossi? Sono loro a puzzare in questo modo. Credo sia un'arma di difesa. Devono aver fatto un nido in questa casapanca. Così dicendo, smossi i fogli calando la lampada all'interno del mobile. Mi stavo abituando all'oscurità e mi resi conto che tutta la casapanca era un brulicare di puntini rossi. Ogni tanto vengo qui a prendere qualche foglio vergine, ma cerco di stare attento a queste creature perché, anche se li cacci, una volta che hanno emesso quel liquido, o le loro feci, non so cosa sia esattamente. Il foglio resta impregnato per sempre. È incredibile! Così piccoli eppure così puzzolenti! Sollevai gli occhi su di lui, la voce rotta dalla commozione. Il grande ordinamento di Leucippo. Il trattato sull'atomismo, la copia che lesse mia madre e quella che aveva Ofione. Tutte e due quelle copie erano conservate qui dentro. Venivano da qui, Eudosso. La lampada tremò, la luce vacillò. Allora vuol dire che il divulgatore, come lo chiami tu, potrebbe essere uno studioso dell'Accademia. Non solo il divulgatore, Eudosso. Non solo lui. Non capisci? Il guardiano! Anche il guardiano, l'assassino! La sua voce era strangolata. Incontrai la paura nei suoi occhi, sul suo volto. Andiamo via di qui, Siotea, subito! Presi un foglio puzzolente, ci soffiai sopra, cercai di scacciare tutti i pidocchietti rossi, lo piegai e lo misi nella mia bisaccia. Si è fatto tardi, Siotea, ci tornerò io da solo o con Eraclide, non ti preoccupare. Mentre spegneva la lucerna, gli dissi di procedere con precauzione con il suo amico astronomo. Eraclide, il guardiano? E strabuzzò gli occhi. Impossibile, lo conosco troppo bene. Come divulgatore potrebbe anche essere, ma non è di quest'ultima figura che dobbiamo aver timore. Mi fece affrettare il passo. Ma se il guardiano è uno dell'Accademia, di me conosce tutto. Lui sa che possiedo il filo di Arianna, seguendo il quale giungerò a scoprire il segreto. Che aspetta a eliminarmi? Stavamo correndo, spaventati dall'idea di rientrare nell'aula a lezione già iniziata. Assiotea, probabilmente il guardiano crede che ci siano altre copie del grande ordinamento. E Demos, per proteggerti, lo ha fatto credere a Firomaco, che è al servizio del guardiano, questo è chiaro. E il guardiano, che è uno dell'Accademia, ora ne sono convinto anch'io, ha fatto in modo di tenerti costantemente sotto controllo, proprio permettendoti di frequentarla. Rasentammo la siepe d'ingresso sotto gli occhi feroci del molosso. Eudosso, ma noi già sappiamo chi è il guardiano. Tu mi hai detto che di Leucippo e di Democrito non si può nemmeno parlare, perché Platone non vuole. Proprio così. Platone ha proibito che nell'Accademia si pronunci il loro nome. Platone ha dichiarato più e più volte che avrebbe speso le sue migliori energie per cancellare dalla storia Leucippo e Democrito e far bruciare i loro libri. Lo sono anche i muri. Scuoteva il capo, un sorriso sarcastico sul volto. Quando varcammo la soglia dell'aula, Platone stava già declamando. Ci sedemmo dietro l'Astenia e Pseusippo. Parlava delle nove muse che avevano dato vita alla musica. La discussione durò parecchie clessidre, imperniata sul numero 9, che rappresentava 3 volte il numero perfetto, ovvero 3 volte 3. Poi Platone ricordò la figura di Laso d'Ermione, la cui storia doveva servire a tutti noi. Nato in Argolide, era venuto ad Atene e nessuno aveva intuito il pericolo che avrebbe potuto rappresentare con le sue novità musicali. Si poteva dire che tutto sommato non era riuscito ad infliggere duri colpi alla tradizione, ma i tempi attuali erano pieni di insidie e chi doveva vigilare sulla musica se non noi dell'Accademia? Noi non dovevamo dimenticare mai che Atene era la capitale intellettuale e spirituale di tutto il mondo civile, che il nostro compito non era solo quello di soddisfare il nostro desiderio di sapere, ma di saper conservare tutto ciò che avevano costruito i nostri avi. Mentre Platone parlava con voce sempre più fioca, la mia mente seguiva due strade. Una era la discussione sulla musica, l'altra quella dei puzzolenti pidocchietti rossi. E guardavo gli allievi. Mancavano da parecchio Erasto, Corisco e Menedemo, quindi tutti gli studiosi si trovavano lì, accanto a me, davanti a me. E quasi certamente in mezzo a loro si celavano il divulgatore e il guardiano. Purtroppo conoscevo solo Eudosso e l'Astenia. Eudosso poteva essere il divulgatore, ne aveva tutte le caratteristiche, mentre chi aveva la mentalità del guardiano era lui, Platone. Tutto portava lui. Ma chiunque altro lì poteva essere il suo complice o sicario per il solo fatto di eseguire i suoi ordini. Che poi fosse uno dei due giovani, Teofrasto, Filippo, o il nipote Pseusippo, o l'integerrimo Senocrate. O il debole Eraclide, o lo stesso braccio destro Aristotele. Non era così importante. Il mandante poteva essere proprio Platone. Tutto questo ragionamento era valido, naturalmente, solo dando per certo che i due testi del grande ordinamento non nascondessero alcun segreto, al di fuori delle teorie dell'atomismo. Avevamo appena attraversato la porta del Dipilon. I preparativi per la processione che si sarebbe tenuta di lì una settimana fervevano sempre più intensi: fiori, danze, stendardi, cori. Eudosso, il divulgatore, ha letto sicuramente il grande ordinamento prima di affidarlo a mio padre Piramo e di mandarlo a Ufione. Credo che anche lui corra dei pericoli, e con la coda dell'occhio lo osservai. Il suo volto pareva scosso da un'agitazione incontrollabile. Anch'io lo penso. Ma se è riuscito a farla franca finora, forse può resistere, chissà. La sua voce argentina era diventata difettosa. Preferii non approfondire, non potevo forzare la sua coscienza. Ci dirigemmo verso il portico Pocile per salutare Diogene, ma non lo trovammo. Pregai allora lo scienziato di incamminarsi subito verso il Pireo. Si allontanò con gli occhi velati da una nube. Stavo costeggiando il portico Basileus quando due uomini intenti a parlare animatamente si arrestarono. Uno dei due abbandonò l'ombra del portico, corse verso di me, i lunghi capelli biondi, liberi, gli occhi verdi sfavillanti. Iperide mi strinse le mani, mi portò dal compagno. L'uomo, scalzo e dalla faccia arcigna, mi fece un cenno di saluto alzando la mano destra. Focione, sii felice, ti rivedo con gioia. Scusami, dovevo venire a trovarti, ma gli avvenimenti si sono accavallati. Sono 2 giorni che frequento l'Accademia. Non sapevo se era il caso di metterlo al corrente di tutte le novità. Ti sono grata anche per questo. Platone mi ha detto che hai perorato la mia causa. Lo stratega fece un gesto con la mano, come a voler allontanare quel discorso, attese che lo fissassi negli occhi. Rallegrati! Come va con il vecchio maestro e l'uomo dai 10 anelli? Provo sollievo al pensiero che nonostante tu e Iperide li abbiate frequentati, siete assiotea, ancora 2 uomini sani. Assiotea, diciamo che anche persone come noi tre, che crediamo di possedere quasi sempre la verità, non faccia male ogni tanto avere a che fare col vero rappresentante di questo paese spezzettato, disunito, senza legge e senza morale. Scuoteva il capo mentre i suoi occhi brillavano di amarezza. Tu sei giovane, Assiotea, e hai un cuore puro. Ma credimi se ti dico che oggi è difficile agire bene, anche se spinti dai migliori propositi. Non riuscivo a staccare i miei occhi da quelli di Peride. L'espressione della severità incorruttibile sul volto di Focione parve dissolversi. Dov'è il tuo uomo, Assiotea? È andato a Fliunte a riscattare uno schiavo pastorello che mi ha adottato come madre. Sarà di ritorno fra una decina di giorni. Ci incamminammo sotto il sole che cominciava a tramontare. Quando mostrai loro la mappa che mi aveva dato Eudosso, entrambi mi dissero che non era il caso di parlarne per strada e nemmeno nella libreria. Così prelevammo Fione e tutti assieme ci recammo a casa di Focione. Neda ci accolse con il solito calore e si mise a preparare la cena, mentre io raccontavo loro l'accaduto degli ultimi giorni, dall'incontro con Firomaco al Pireo ai pidocchietti puzzolenti dell'Accademia. Fu Ofione a intervenire per primo. Allora le cose potrebbero essere andate così. Il divulgatore riceve da un allievo di Democrito due copie del grande ordinamento di Leucippo. È uno dell'Accademia, molto probabilmente il nostro amico Eudosso di Cnido. Legge il trattato. Sa che l'atomismo e i libri della scuola abderita sono proibiti nei giardini di Accademo. Lui già conosce tuo padre, perché quelli dell'Accademia gli ordinano spesso di fare copie dei libri di Platone e di altri. Gli affidi due esemplari, pregandolo di venderne una a me e di farne eseguire cinque copie per poterle divulgare. Ma il guardiano scopre tutto. Recupera l'esemplare di Fliunte uccidendo tua madre che l'ha letto. Ruba l'altro nella mia libreria. Ofione si mise le mani nei capelli irti come a voler riordinare i pensieri. Appena il guardiano si sente in pericolo, uccide, come ha fatto con la povera Marpessa e probabilmente con Piramo. Ci sono ancora tre persone che potrebbero aver letto il contenuto del libro: Assiotea, io e il divulgatore. Ma il guardiano sta temporeggiando, sta aspettando che accada qualcosa, e quel qualcosa accadrà all'Accademia. A te. Assiotea, hanno permesso di entrarci per poterti osservare, per scoprire quello che sai. E vedrai che prima o poi, invece delle favolette di Atlantide, parlerete di atomismo. Allora dovrai stare molto attenta, sia tu che il divulgatore. Focione chiese il parere di Peride, il quale, fissandomi con occhi ardenti d'amore, mi consigliò di non mettere più piede in quei giardini. Assiotea, se avete ragione, se il guardiano è uno dell'Accademia, non hai alcuna speranza di strappargli la maschera. Corri solo il rischio di essere ammazzata, nel caso a lui venisse il sospetto che hai letto il grande ordinamento. A questo punto tocca a me riassumere, aggiunse Focione. Assiotea, puoi darmi per un momento la mappa di Eudosso? Non appena gliela porsi, srotolò il foglio di papiro mostrandola a tutti. E se questa faccenda delle statuine e miniere d'oro fosse il vero segreto a cui, oltre a Eudosso, il guardiano sta dando la caccia? Nessuno di noi ha letto il grande ordinamento. In quel testo potrebbe essere nascosta l'indicazione delle miniere d'oro. Chi riuscisse a impadronirsene potrebbe vincere qualunque guerra. Con l'oro si possono costruire triremi a volontà, comprare la pace di paesi confinanti, rafforzare gli eserciti. Filippo il Macedone con le miniere d'oro del Pangeo sta facendo proprio questo, mentre noi ateniesi non riusciamo più a tenere il suo passo con le sole miniere d'argento dell'Aurio. Tracce di preoccupazione rendevano ancora più scuro il volto dello stratega. Se Assiotea se la sente, è meglio che continui a frequentare l'Accademia. È attorno a lei che ruota tutta questa faccenda e probabilmente sarà proprio lei che in qualche modo dovrà risolverla. Continuerò a frequentarla almeno fino al ritorno di Demos, poi non so quello che accadrà. Demos deve organizzare un viaggio per conto di Eudosso nella penisola calcidica. A caccia di statuine e miniere d'oro? Domandò Ofione, sgranando gli occhi in modo scherzoso. Sì, amico mio, e di libri della scuola atomista. La nostra meta principale sarà Abdera, infatti. Focione richiamò la mia attenzione. Se Demos e Eudosso non sono molto esperti di navigazione, che vengano da me, posso istruirli io assieme al mio amico Coridemo e aggiornare le loro mappe geografiche. Mi raccomando, Esiotea, quelle sono zone di guerra, che non partano senza prima aver parlato con me. E la sua faccia divenne ancora più arcigna del solito. Ovviamente ci mettemmo a cenare e un buon bicchiere di vino servì a farmi svanire la tensione accumulata durante il giorno. Mi sentivo bene attorno a quel tavolo. Con quella gente onesta, i loro progetti, il loro modo di vedere la vita. Avevamo tutti un sogno in comune, un mondo più giusto. Scoprivo il carattere di Neda, la sua riservatezza nel parlare, l'accordo che c'era con il marito. Era evidente che il soffitto era un pilastro su cui poggiava l'intera vita di Focione ed era bello vedere quella coppia così diversa da tutte le altre. E poi volevo che Demos tornasse subito. Doveva impedirmi di bere vino. Con lui accanto mi sarebbe stato molto più facile sfuggire agli sguardi di Peride. Seduto accanto a me all'inizio non mi aveva fissato una sola volta in quel modo intimo e profondo, come la sera della pioggia a casa sua. Ma il dopo cena, il dopo vino, aveva sciolto i legami dell'educazione. Mi parlava di politica, del tiaso dei copisti, della riunione che ci sarebbe stata il giorno della processione, di Peribea e di Ifilo, ma il suo pensiero era altrove. Volava sulle ali di quello sguardo traboccante di desiderio. Quando mi sfiorava un braccio o una mano, gesticolando, tratteneva il contatto per qualche attimo in più e io non mi allontanavo perché il vino che avevo bevuto mi sussurrava che era stupido rinunciare a quei languidi sospiri. In quel momento Iperide voleva me e soltanto me, e io rinunciavo a farlo entrare nel mio corpo, mentre già avevo lasciato che si installasse in una delle più luminose stanze del mio cuore. Oh, Demos, torna subito, torna, ti prego. Uscimmo dalla casa di Focione che tremavo tutta. Ofione ci precedeva perché conosceva la strada anche al buio, ma in effetti l'oscurità non era assoluta. Uno spicchio di luna riusciva a intrufolarsi nei vicoli. Il vecchio libraio imprecava perché aveva veramente esagerato col vino e andava ad appoggiandosi ai muri. La viuzza era talmente angusta che eravamo costretti a camminare in fila. Iperide mi teneva stretta, abbracciata, mi martoriava un orecchio con i denti, mi baciava il sottile strato di capelli. Poi mi chiese cosa fosse quella protezione di cuoio sul petto. Glielo dissi, per l'accademia, per sembrare quanto più possibile un maschio. Ma non ci riuscirai mai, Assiotea. Tu sei bella come il sole. Toglitela adesso. Falli respirare i tuoi semi. Così. Sfilatela così. Oh, Mosa. Oh, Erato. Sono due coppe dure. Mi sentivo morire. Eravamo arrivati a casa. Ora lui mi vorrà. Ofione cadrà tra le braccia di Morfeo appena si sarà sdraiato. Assiotea, credo che sia giusto che tu conosca questo tipo d'amore. Non scappare questa volta. Fuggi solo se hai deciso che non vuoi, ma solo in questo caso. Noi due ci siamo già incontrati nel sogno. Poi a Cleone. Non devi rinunciare al tuo spicchio di felicità. E mi martoriava i seni e l'orecchio e il collo e mi baciava la nuca e io ero sua. Volendo potevo anche fuggire. Potevo inventarmi qualunque pretesto, ma ormai mi ero schiusa a lui. E mentre Fione cadeva sul suo letto, tornarono le lucciole e mi aprì a tutte quelle fiammelle. Il mio ipocrita candore virginale andò in frantumi, spazzato via da umori impregnati di cielo.